Ah, oggi è il 5 maggio, mi fa sapere Peter Bescapè. Sportivamente anche quella è una data significativa. Berlusconi che ha parlato, questo scudetto, vabbè, mi aiuterà al voto. Insomma, parliamo di sport. E poi ha detto, ho vinto più di Santiago Bernabeu, dovrebbero intitolarmi lo stadio. Da stadio San Siro, non stadio Giuseppe Meazza, stadio Silvio Berlusconi. Il giornale radio. 24 mattino. L'intervista. Alle 8:23 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Voglio salutare per la nostra intervista il generale Carlo Cabigioso. Generale, buongiorno. Buongiorno a voi. Il generale Cabigioso, intanto, ha una carriera militare lunghissima alle spalle, è stato anche a comando del Comitato Operativo Interforze che controlla le missioni italiane all'estero. È un consulente della NATO, tra le altre cose. Generale, quella NATO che è stata chiamata da una mozione politica a dire fissiamo un termine per la guerra in Libia. Ha senso una richiesta di questo genere? Molto difficile, soprattutto quando all'inizio di quell'operazione non erano stati stabiliti esattamente gli obiettivi da conseguire. Quello che è successo in Libia, dove l'intervento della comunità internazionale sulla spinta, è vero, della risoluzione delle Nazioni Unite è avvenuta però piuttosto frettolosamente. L'ipotesi di segnare una deadline, voglio dire, dal punto di vista militare, questo ha senso? Oppure no, si inizia un'operazione militare senza sapere un termine preciso? Ma in realtà dovrebbe essere così, ci dovrebbero essere degli obiettivi da raggiungere e fissare, anche se in linea di massima, dei tempi entro cui conseguirli. Noi vediamo che in Afghanistan questa, che poi è una forma di exit strategy, si sta inseguendo ormai da 8-9 anni, solamente il Presidente degli Stati Uniti dicendo che dal 2013 vorrebbe ritirare le sue forze dall'Afghanistan, in qualche modo si incomincia a parlare di una data per la conclusione di quelle operazioni. La Libia è un caso appena aperto e abbastanza ancora incerto nei suoi esiti. Senta, la risoluzione, vogliamo ricordare, che ha spinto poi all'intervento militare è proteggere i civili, questo di base, dalle eventuali aggressioni anche e uccisioni da parte degli uomini di Gheddafi. Molti si sono interrogati, per esempio, se fosse compatibile questo raid nel quale è stato ucciso, è rimasto ucciso un figlio di Gheddafi e anche i suoi nipoti. In effetti ci può essere qualche dubbio sulle modalità per conseguire una rapida conclusione delle ostilità. Certamente l'eliminazione dell'attore principale potrebbe risparmiare vite umane, mezzi anche economici, evitare ulteriori distruzioni nella Libia, la cui ricostruzione poi in qualche modo ricadrà sulla comunità internazionale, quindi se dovessimo fare un calcolo cinico, forse la perdita di una persona compenserebbe tutto questo. Questo però pare che non sia negli obiettivi, cioè la NATO l'ha già detto, non è che vogliamo eliminare fisicamente Gheddafi, o meglio, mi pare di aver capito questo, però lei dice forse potrebbe essere una soluzione, in realtà la soluzione più sbrigativa, lo so che cinicamente è brutto a dirsi, ma per risolvere tante questioni. È questo, e in realtà abbiamo visto che proprio in questi giorni altre operazioni condotte in parti più lontane del mondo, certo, in un certo modo assomigliano a questa che si vorrebbe condurre contro Gheddafi. Senta, a proposito di altre parti del mondo, la vicenda Osama Bin Laden, che è legata strettamente all'Afghanistan, come le ci ha detto, dove è presente la comunità internazionale, la NATO ha detto si resta in Afghanistan anche se c'è questa exit strategy. Legare invece l'idea di dire abbiamo ucciso il leader di Al-Qaeda e dunque possiamo andarcene, missione compiuta, è sbagliata? Ma in un certo senso all'inizio tutta l'operazione delle forze di ISAF e degli Stati Uniti in Afghanistan era stata proprio con l'intento di debellare l'organizzazione di Al-Qaeda, che col regime talebano aveva costituito una specie di alleanza e si avvaleva dell'Afghanistan come base di partenza per ogni attività di tipo terroristico. Con l'uccisione di Al-Qaeda, con l'uccisione, scusate, di Osama, questo obiettivo non è del tutto conseguito, perché la rete del terrorismo esiste ancora, però potrebbe dare una giustificazione politica ad un'accelerazione del ritiro delle forze dall'Afghanistan. L'ultima domanda generale è proprio su questa vicenda del raid. Lei da militare che posizione di comando militare, che idea si è fatto e che ne pensa di questo raid in Pakistan per uccidere Osama? Sicuramente è stata un'operazione condotta con grande efficienza, con dei mezzi anche innovativi sotto l'aspetto tecnologico, tipo di elicotteri, tipo di soppressione delle comunicazioni nell'area in cui doveva essere fatta l'operazione. Sicuramente con un grande addestramento del team che ha condotto il Blitz, per cui da un punto di vista militare si è trattato effettivamente di un'operazione di eccellenza. Poi tutte le altre cose di cui si parla, fotografie, uccisione a freddo, eccetera, nessuno potrà mai sapere esattamente come si sono svolti i fatti. La verità. Ma noi ne parliamo tra poco della questione foto da pubblicare oppure no. Obama ha già detto non la vedrete. Intanto la ringrazio, generale, per essere stato con noi. Generale Carlo Cabigiosu, come detto oggi consulente della NATO. E allora ovviamente buona giornata. Noi ci fermiamo per la pubblicità e il meteo, e poi appunto il nostro sondaggio è questo: questa foto di Osama Bin Laden va mostrata al mondo? Il presidente americano Obama ha detto no, non la mostreremo. Siete d'accordo? Votate su radio24.it oppure 800 24 00 24. 24 mattino. Alle 8:34 minuti. Allora ci interroghiamo su questo: è giusto mostrare al mondo la foto del cadavere di Osama Bin Laden? È il tema del nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? E il 62% dei nostri ascoltatori al momento dice no, non è giusto, ci va bene così. Un po' come ha detto il presidente americano Obama, che ha detto non mostreremo questa foto. Foto troppo truci, troppo truculenti, che potrebbero davvero ritorcersi contro. Io ne voglio parlare, ne parleremo con un magistrato, Stefano D'Ambruoso. Buongiorno, dottor D'Ambruoso. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Da 20 anni fa ha fatto le prime inchieste contro il terrorismo islamico, di matrice islamica, e oggi lavora al Ministero della Giustizia, ci racconterà qualcosa. Voglio salutare anche Izzedine Elzir, che è presidente dell'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche Italiane. Buongiorno, presidente. Buongiorno. Così come il collega Alessio Vinci, conduttore di Matrix su Canale 5. Alessio, buongiorno. Buongiorno. E io vorrei partire da te, facendoti un po' rispolverare anche la tua lunga esperienza nei media americani, la CNN in particolare. Perché il presidente americano Obama, a tuo parere, ha deciso di non mostrare al mondo, in una scelta importante, insomma anche molto tormentata, immagino, queste immagini? Ma lo ha detto perché non la vuole fare vedere, perché è una foto impresentabile. Lui, se non sbaglio, ha detto sono spaventose a un certo punto ieri, quando ha cercato di giustificare questa sua decisione. Quindi una foto di una faccia di Bin Laden completamente trucidata o comunque tumefatta è una foto che tanto non servirebbe a fugare quei dubbi che quelli che richiedono la pubblicazione delle foto hanno, e cioè che dicono che Obama, che Osama non è l'Osama Bin Laden che è il dietro gli attacchi dell'11 settembre. Sono altre domande, sai, in questo momento non credo che quella foto potrebbe in qualche maniera cambiare l'opinione della gente che pensa che gli americani, certo, abbiano ucciso un'altra persona. Gli scettici inizierebbero a partire con i complotti Photoshop, esatto. Ecco, non era lì, ma chissà la dimostrazione. Quindi il gioco non vale la candela. Però si discuteva anche qui in redazione prima, forse c'è tutta una gran massa di persone molto moderate che credono assolutamente che Osama Bin Laden fosse lì in quella casa e sia stato ucciso in questo raid americano, e che però dicono accidenti, magari vedere vedere una foto, vedere un'immagine potrebbe rassicurarci un pochettino sulle tante domande legittime che ci si fa. Ma guarda, secondo me sono tre le domande che adesso tutti quanti si pongono, per poi anche capire come è andato a finire, come veramente è accaduto questo raid. Osama Bin Laden era armato o no? Ha usato la moglie come scudo umano, come alcuni dicono, e soprattutto ha opposto resistenza? E se non ha opposto resistenza, perché non è stato catturato vivo? La foto in sé difficilmente riuscirà a rispondere a queste tre domande. sono gli americani che non soltanto con la foto, ma cercando di spiegare esattamente come questo raid è stato portato a termine, devono poi chiarire il perché lui è stato ucciso, ma non è una foto in sé che riuscirà a stabilire se la persona che loro hanno ucciso è davvero Osama Bin Laden o in qualche maniera spiegare come è andato il raid. La domanda che bisogna farsi oggi è: ma un gruppo di specialisti, di un gruppo speciale di armi, di soldati americani, specialmente, come dire, anche allenato per questo tipo di operazioni, perché non è riuscito a catturarlo vivo? Tra l'altro dobbiamo anche sottolineare il fatto che la figlia di Osama, questa cosa è ancora terribile, di Osama, dice che è stato catturato vivo e poi giustiziato. Quindi l'altra domanda che i complottisti si fanno, come tu sai, è certo, c'era una figlia di Osama Bin Laden che ha detto: l'ho visto catturato e poi giustiziato. Quindi tutti gli scettici che pensano che Osama non fosse lì, insomma, dovrebbero chiedere perché la figlia dice che ha visto uccidere il padre. Per quel che riguarda i lapsus, guarda Alessio, c'è un famoso conduttore in America che ha annunciato, è vero, President Obama is dead, con l'annunciatrice vicina che ha detto Osama Bin Laden is dead, ha annunciato la morte di Obama. Ma Obama, Osama, è veramente una tragedia in questo. Dottor D'Ambrosio, ci dica che cosa ne pensa lei, se vuole, anche della questione foto e anche del rischio ora di quello che potrebbe aizzare, se, visto che la foto non la vedremo, dei rischi comunque concreti che ci sono di possibili ritorsioni. Sì, sulla foto chiaramente io non ho nessun background come Alessio Vinci in materia di media, però mi piace dire, giusto per aggiungere qualche valutazione di tipo personale a questa vicenda, che si è molto discusso fra l'esercizio dei diritti che paesi democratici come l'America o come gli altri paesi europei devono comunque continuare ad osservare nel contrasto e nella lotta al terrorismo internazionale, in particolare quello di matrice islamica. Ricordiamoci tutte le polemiche sull'esercizio dei diritti e diritto alla sicurezza quando si è parlato di Guantanamo. Ecco, io trovo un parallelo anche colgo una valutazione parallela anche su questo aspetto. Ecco, che cosa aggiunge l'esercizio estremo del diritto all'informazione, che è un diritto sacrosanto, garantito da tutte le carte costituzionali, in questo caso a fronte dell'esigenza primaria che deve essere avvertita da tutti i cittadini nella stessa misura, forse credo anche una misura maggiore, che è quella di un diritto alla sicurezza contro eventuali rappresaglie anche di singoli cani sciolti che potrebbero sentirsi stimolati, provocati. Questo è un tema interessante, cioè lei dice che cosa aggiunge di più il mostrare quello che anche il presidente Obama forse ha definito un trofeo che l'America non ha bisogno certo di esibire, perché non è questione di dire vi facciamo vedere ecco come l'abbiamo ridotto. Qui sono davvero in gioco quel bilanciamento fra diritto alla sicurezza che deve essere garantito anche in questo aspetto della vicenda e la sicurezza dei diritti e i diritti da assicurare, in questo caso è il diritto all'informazione e alla pubblicazione, alla libera informazione, che è un altro dei capisaldi delle grandi democrazie a cui anche noi italiani apparteniamo. Insomma, in questo caso ritengo che sia assolutamente poco attenuata, poco compressa questo diritto all'informazione, questa libertà di informazione rispetto ad un'esigenza che appare sicuramente primaria, che è quella di una di assicurare appunto una garanzia ai cittadini contro possibile ritorsione. Io vorrei chiedere a Izzedine Elzir, presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche Italiane, che ne pensa lei della foto? Ci aiuti anche a capire dal punto di vista suo se questa foto potrebbe essere il pretesto per alcuni estremisti, terroristi, di dire allora facciamo delle ritorsioni perché ci avete fatto vedere come avete ridotto uno che riconosciamo come leader. Certamente può essere, perciò io secondo noi è meglio di non far vedere la foto, ma anche per rispetto del corpo umano, diciamo, del defunto, essendo la religione islamica considera la cosa migliore per una persona morta quella la sepoltura subito, e allora per anche un motivo religioso, meglio di non far vedere le foto. A proposito di sepoltura, visto che lei ha detto questa cosa della sepoltura in mare, qual è la sua posizione? L'Islam rispetta l'essere umano sia vivo che morto, perciò doveva essere, diciamo, sepolto in maniera religiosa islamica, sotto il suolo della terra, non in mare. Ma comunque credo questa è una pagina chiusa, dobbiamo aprire una nuova pagina del rispetto, del dialogo, del confronto. Lei ha dei dubbi su quello che è avvenuto? No. Cioè Osama Bin Laden era lì ed è stato crediamo, ucciso? Sì, che era lì. Certamente per noi il pensiero, diciamo, è morto con la rivoluzione in Tunisia, in Egitto, dove il popolo arabo si è sacrificato in maniera positiva per chiedere la libertà, non danneggiando l'altri. Cioè è morto, esatto. In che senso? È morto diciamo Osama Bin Laden è morto, è stato il popolo con le rivoluzioni chiedendo maggiori diritti, maggiore libertà, che in qualche modo ha fatto morire il messaggio di Osama Bin Laden, questo ci sta dicendo? Sì, certamente, credo così. Alessio Vinci, questa è una lettura interessante da parte del leader delle comunità islamiche, che ne pensi? Che è una lettura giornalistica che molti danno, cioè in realtà Al-Qaeda è morta e sepolta, o meglio ci sono i cosiddetti cani sciolti, ma quel messaggio lì è stata la migliore vittoria, sono le cosiddette rivoluzioni del popolo, dei popoli in paesi arabi a cui stiamo assistendo da mesi. Non soltanto, ma credo che anche il messaggio da sottolineare è il fatto che Al-Qaeda in queste rivoluzioni avrebbe potuto trovare un terreno fertile per infiltrarsi, invece non l'ha trovato, e questo è da sottolineare. Io mi ricordo quando nei primi giorni, nelle prime settimane di gennaio, quando cominciavamo a commentare appunto le rivoluzioni in Egitto, in Algeria, e poi dopo in Libia, come si parlava di estremisti islamici, di addirittura gruppi terroristici che avrebbero potuto in qualche maniera infiltrarsi e creare e raccogliere quel sentimento popolare antiregime e in qualche maniera sostituirsi ai regimi di quel tempo. Invece non è successo perché la gente in questo momento non vuole meno Mubarak che più Al-Qaeda, non vuole quello, vuole democrazia, vuole libertà, vuole vivere bene, e sanno benissimo che Al-Qaeda non è la risposta. Allora io devo l'estremismo non funziona e non ha funzionato. È interessante, devo dare le informazioni sul traffico, però Alessio poi ho una domanda da farti proprio sulla questione del ruolo dei mezzi di informazione, giganti dell'informazione, CNN, ma non solo, anche la Fox, su questa cosa della foto, perché capire insomma lo spirito anche di dell'informazione è quello di cercare di dare una notizia. Allora, dove si può coniugare il dovere di dare una notizia col dovere, appunto, come ci diceva il dottor D'Ambruoso, di cercare di non incitare gli animi, insomma, di non rischiare di urtare qualche suscettibilità che poi può provocare davvero dei disastri immani. Tra poco. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Eccoci qua, allora 800 24 00 24, vedere o no questa foto di Bin Laden? Il 62% dice di no. Vorrei sapere che ne pensa Domenico da Caserta, buongiorno. Buongiorno dottor Milan. Dica. E ai suoi radioascoltatori. Io sono uno di quegli ascoltatori che sarebbe contento di vedere la foto. Per un motivo, le spiego il motivo. Sinceramente credo che noi del mondo occidentale abbiamo ancora oggi impresse le immagini tragiche di quegli aerei che sono piombati sulle Torri Gemelle. Sì. Ci manca, almeno a me manca in questo momento, l'altro lato della medaglia. Sarebbe quasi vedere con gli stessi occhi la giustizia materializzata. Sì. Cos'è una rivalsa, come dice Obama? No. Un trofeo da esibire, cioè vedete cosa fa, cosa succede a chi ci colpisce? Vedete, perché nel senso di vederlo, lo sappiamo cosa succede a chi ha colpito l'11 settembre, l'abbiamo scoperto. Sì, però io in questo momento ho le immagini sempre dell'11 settembre, vorrei sovrascriverle con un qualcosa di diverso. E in questo momento ho ancora le immagini degli aerei che piombano sulle torri. E questa immagine di Osama Bin Laden crede che sovrascriverebbe o cancellerebbe quelle immagini? No. Cancellerebbe no, quello no. Non penso che ognuno di noi che abbiamo vissuto in quella data... non riuscirà a dimenticarle, però potrebbe quantomeno aiutarci a non pensare sempre solo a quegli aerei. Va bene, io non sono d'accordo con lei, comunque eccoci qua, grazie Domenico per il suo, apporto. Alessio Vinci, allora, in questo momento i capi della CNN che domanda si pongono? Ha detto Obama non la mostreremo e quindi non la cerchiamo, è giusto così? Oppure noi dobbiamo fare il nostro dovere di informazione, quindi dobbiamo cercarla questa foto e dobbiamo farla vedere? Allora, i capi della CNN, se posso rapidamente rimettermi nel vecchio lavoro, e credo che stanno cercando di rispondere alcune delle domande che si fanno tutti i giornalisti che ci hanno cercato di capire esattamente cosa è successo durante quel raid. Le tre domande che poi, tra l'altro, se non sbaglio, sono anche riportate oggi sulla stampa, no? Cioè capire bene se Osama si è difeso, se era armato, se ha usato la moglie come scudo, e ripeto, una foto non riuscirà mai a rispondere a queste tre domande. Però sulla opportunità di fare vedere questa foto, o in generale la foto di un Obama martoriato, uno deve anche cercare di tornare a fare un passo indietro e vedere esattamente come lui, cioè come Osama, ha utilizzato filmati, videomessaggi, appelli televisivi per lanciare la sua jihad contro gli Stati Uniti. Io mi ricordo perfettamente quando negli anni scorsi, quando cominciò dopo l'11 settembre, quando cominciarono ad arrivare i primi filmati di Osama, è che c'è la grande indecisione in redazione se trasmetterli o meno, perché non trasmetterli, appunto, si ledeva quel diritto di informazione di cronaca al quale si riferiva prima D'Ambrosio, ma trasmettendoli c'era anche il rischio di trasmettere un appello, un messaggio in codice, e quindi bisognava fare molta molta attenzione. Tra l'altro era sempre molto difficile cercare di stabilire se questi messaggi erano autentici o meno. In questo caso la foto sarebbe un po' diversa, è più una questione di opportunità, perché messaggi in una foto... Ma guarda, ti posso garantire, la foto, ora tralasciamo un attimo la bufala mediatica ore di lunedì mattina, quando è stata trasmessa quella foto che era la fotomontaggio, per dire che era un falso, ed è stata smascherata soltanto dopo poche ore. Però anche lì noi giornalisti abbiamo una grandissima responsabilità. Quando noi trasmettiamo una foto del genere, a parte che quella stessa foto era abbastanza lucida in sé, no? Sì. In che maniera? Io, guarda, lo dico senza nessun pudore. Insomma, io mi ricordo, stavo guardando il telegiornale insieme a mia moglie e mia figlia di 4 anni, e a un certo punto, bam, ci hanno sparato questa foto davanti. Non è stato bello. Capito? Non è stato bello alle 8:15 di mattina. Ma io vorrei, dottor D'Ambrosio, il rischio di ritorsioni, perché prima questa domanda mi è rimasta un po' in sospeso, di cani sciolti, si dice, anche sul suolo italiano. Parliamoci chiaro, quali sono? Sono sicuramente più alti rispetto a 3 giorni fa, ma non in una misura tale da dover creare degli allarmismi. Ma questo non è inutile ottimismo che viene diffuso in periodi di obiettive difficoltà. Evidentemente i cani sciolti possono trovare in questa vicenda un detonatore per passare all'azione. C'è gente che, senza aver mai contattato Bin Laden, senza essere mai stato in Pakistan o in quelle aree, è cresciuta via web, avendo una cittadinanza, sono i cosiddetti home grown terrorists, quelli che sono nati in Inghilterra, ma probabilmente anche in Francia e in Italia, e che per disagi personali, per mancata integrazione sostanziale nei paesi che li hanno accolti, alla fine decidono di vivere la propria jihad. Ecco, di tutto questo si è parlato. Ecco, loro possono trovare un'occasione, uno stimolo per poter andare. Si ricordi, così non vi tedio più con le mie considerazioni, ma consideriamo a che cosa è servito mostrare quanto democratico è il mondo occidentale, che vuole essere abbattuto, che è uno degli obiettivi da abbattere da parte di questa jihad. Il processo contro Saddam, abbiamo mostrato che che è stato processato, ma è stata un'occasione per polemiche, reazioni soprattutto in Iraq, perché lo si riteneva un processo non garantista, che non assicurava a Saddam tutti i tipici diritti di qualunque difensore. Ecco, a che cosa serve l'esercizio estremo dell'informazione? Chiediamocelo. Enrico da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. No, io avevo una, non dico proposta, per carità, potrebbe Obama decidere di mostrare questa foto ai capi di Stato ed evitare di pubblicarla sui giornali, in modo che tutti si accertino, attraverso il proprio capo di Stato, che la cosa è successa ed è vera, insomma. Ma perché lei ha dei dubbi che sia vera? No, non ho dubbi io ne sono certo. Ma c'è tutta questa confusione se è avvenuta. C'era poi la discussione, la state facendo, se fa pubblicare o no questa foto. Sì, che potrebbe, sì, sì. Ma perché farla vedere allora, i capi di Stato? Cioè, se il capo di Stato... Segretari... Ma perché? Cioè, non ho capito. Perché? Per garantire allo Stato, ai cittadini, a tutti quelli che hanno dubbi che questo è avvenuto. Cioè andiamo a far vedere al capo di Stato dell'Azerbaigian, che è Osama Bin Laden, che è stato ucciso, l'opinione pubblica dell'Azerbaigian è tranquillizzata, perché il capo di Stato ha visto. Io sarei tranquillizzato, a parte che io ci credo, ma se fossi uno di quelli che non ci crede, se il mio rappresentante di Stato... Se Napolitano le dicesse, l'ho vista, e lui... Napolitano o Berlusconi. Io l'ho vista e vi garantisco che è successo. Va bene, con questa proposta un po' singolare mi fermo. Grazie Enrico, da Izenel Zir, capo dell'UCOI. Alessio Vinci, conduttore di Matrix, che so questa sera credo parlerà proprio di questo su Canale 5, e Stefano D'Ambruoso, magistrato, grazie per essere stati con noi, con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione, Peter Bescapè in regia. L'appuntamento tra due giorni, Alpino. Ce l'hanno richiesta, una canzone amata dagli alpini. Quanto manca tre giorni? Domenica, sabato e domenica. Il raduno degli alpini. Domani vi segnalerò anche un libro, A domani, 7:20.